известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. He comes from Boston, Massachusetts, on the topic of education. The founding fathers believe that there is no difference between a free society and an educated society. Our educational system, however, is woefully inadequate. How do you plan to restore education as a right and core cultural value in America? Well, it's a great question, and let me see if this mic works so that I'm not stuck at this podium. Fatemi vedere se funziona questo microfono, perché ve la voglio raccontare con chiarezza. Questo è Barack Obama alle prese con il primo meeting virtuale, come lo hanno chiamato, anche in molti altri modi, il primo town hall alla Casa Bianca, town hall inteso come incontro, no? Incontro di quelli che si fanno nelle sale consiliari dei piccoli paesi, quelli immortalati dai quadretti di Norman Rockwell, col cittadino, l'uomo normale, l'uomo della strada, l'uomo di Main Street che alza la mano e parla col sindaco, col governatore, gli dice no, così non va. Ebbene, che è successo? È successo che lo staff di Barack Obama, quando è entrato alla Casa Bianca, si è messo le mani nei capelli per un motivo: il livello tecnologico della Casa Bianca pare fosse bassissimo. Insomma, lì non c'era gente di un altro genere, magari intellettuali, magari professori, politologi, generali, gente che con la tecnologia aveva un rapporto così piuttosto freddino, magari filtrato da staff di assistenti e quant'altro. Invece la truppa di Barack Obama, fatta proprio da nerd, no? Tecno nerd, gente appassionatissima, lo stesso presidente, di macchinette di ogni genere, ha detto no, così non va, aggiorniamo le cose, in 2-3 mesi fra transizione e inizio della presidenza hanno rimesso in piedi la rete, il sito della Casa Bianca, i vari siti di connessione, hanno inaugurato l'appuntamento settimanale del presidente con i cittadini americani, che fino a quel punto veniva ancora veicolato attraverso le onde della radio, come questa che state ascoltando adesso. Ora invece è anche un'esperienza visuale, prima con YouTube, poi con canali preferenziali, e poi si è arrivato al primo culmine di tutta questa esperienza, allorché ieri Barack Obama ha parlato con gli americani in diretta, ha risposto alle domande degli americani in diretta in un vero e proprio forum, incontro, dibattito, chiamatelo come volete, ma come se fosse in una sala consiliare, ma tutta l'America si poteva collegare e alcuni fortunati potevano anche porre le loro domande al presidente, domande che erano state iscritte attraverso un apposito modulo, poi erano state votate dai visitatori del sito, le domande che avevano avuto più voti e sono quelle a cui Barack Obama ha dovuto rispondere, domande sull'economia, sulla sanità, sull'educazione e anche domande piuttosto strane. About which questions were going to be asked. And I think 3 million people voted or 3.5 million people voted. I have to say that there was one question that was voted on that ranked fairly high. Dice 3 milioni e mezzo di persone, festeggiando Obama, hanno votato per scegliere le domande e una domanda che ha preso molti voti e ne sono sorpreso è questa qua: non possiamo, per aiutare l'economia, legalizzare la marijuana? But I just want I don't want people to think that this was a fairly popular question. Dice, una domanda molto popolare questa qua, molto votata. La risposta è no, non credo che sia un buon modo per aiutare la nostra economia, però è una domanda che mi fa capire più o meno in che condizioni versino, mentalmente parlando, coloro che frequentano la rete e questo sito. Insomma, come dire, comportatevi bene, no? Non fate stravizi. Gran successo questa iniziativa di Barack Obama, tant'è vero che poi ci ha fatto venire, no, il tarlo, e per cui tra poco in Express Yourself vi offriremo una versione riveduta e corretta, come si diceva una volta, all'italiana. Immagini piuttosto angosciose arrivano dalle televisioni in diretta, in condizione di allerta, perché c'è una grande inondazione, in parte cominciata ma soprattutto attesa, nella città di Fargo, quella del film, no? North Dakota, le parti più periferiche e meno chiacchierate d'America. Il Red River si è intasato per il ghiaccio e adesso sta venendo fuori come non è mai venuto fuori, stanno praticamente sgomberando mezza città. A proposito di una notizia che abbiamo dato una certa rilevanza ieri, ci torniamo sopra perché Carlo, gentile ascoltatore, ci torna a sua volta sopra. Vi abbiamo raccontato di come in tempi di crisi succedono cose strane e si ricomincino a fare cose strane, ad esempio cercare l'oro. Non è una attività che ci sembrava, come dire, perfettamente aderente, no? Combaciante con il contemporaneo, invece in mancanza d'altro. Ieri vi abbiamo raccontato di come, che so, dei tecnici di Hollywood, magari rimasti disoccupati, prendono il loro bravo passino, non so esattamente come si chiama, l'arnese, vanno a passare le acque vicino a Modesto e alcuni di loro, pochi, fanno anche fortuna. Ebbene, ci precisa Carlo che in relazione a tutto questo, in Italia, a Biella, chi l'avrebbe mai detto, a Biella, pensate un po', terra di tessuti, però terra anche d'oro, perché a Biella, a Ferragosto, c'è il campionato dei cercatori d'oro, c'è un sito www.cercatoridoro.it, se siete cercatori d'oro, pensate di esserlo, o semplicemente volete cercare d'oro, o concorrere, o peggio ancora, se a Ferragosto non c'è niente da fare, bene, cercatori d'oro, ritrovo, punto di ritrovo a Biella, a Ferragosto. Lo so che fate finta di niente adesso che siamo ancora a marzo, poi ne parliamo quando si avvicina l'appuntamento. Vi voglio poi infine ragguagliare riguardo a una storia veramente particolare di cui parla un settimanale americano che racconta di questo giovane, attualmente 25enne, si chiama Terry Holbrooks, che ha servito per 6 mesi alla prigione di Guantanamo, a guardia dei prigionieri, era uno dei tanti soldati incaricati, era un army specialist, uno specializzato incaricato di fare la guardia. Racconta anzi che il suo lavoro lì era veramente minimo, doveva stare attento che non si passassero bigliettini, dare una ramazzata al pavimento della sala centrale dove si affacciavano le celle e poi poco altro. Che è successo? Racconta oggi Terry Holbrooks in questo magnifico articolo firmato da Dan Efron su Newsweek. Racconta che a un certo punto ha cominciato a fare amicizia con alcuni dei carcerati, alcuni dei prigionieri di cui lui era incaricato, era il carceriere incaricato. Uno in particolare si chiama Ahmed El-Rashidi, era conosciuto nel carcere di Guantanamo come il generale, e i due diventano un po' alla volta amici. Gli racconta storie che lo interessano, lo coinvolge, parla tra l'altro perfettamente inglese Ahmed, perché è stato 18 anni cuoco a Londra. E che succede? Succede che a un certo punto si mettono a parlare di religione, si mettono a parlare di Islam, e un po' alla volta l'interesse di Terry, del ragazzo americano, tra l'altro con dei trascorsi molto turbolenti, genitori tossicomani, a sua volta alcolizzato fino a pochi mesi prima di entrare nell'esercito, un po' alla volta nella testa di Terry succede qualcosa, si convince che il richiamo, il messaggio religioso che questo Ahmed gli sta presentando lo interessa, lo coinvolge e sempre più lo attira, fino a che una notte che ci immaginiamo calda e solitaria nella notte piatta, no, e uniforme di Guantanamo, Terry, alla presenza di Ahmed, pronuncia la famosa frase di una riga sola attraverso la quale ci si converte all'Islam, e non c'è Dio, non c'è altro Dio che il nostro Dio, e Maometto è il suo profeta. E così facendo comincia la sua seconda vita, la vita da carceriere musulmano dentro un carcere che tiene prigionieri. Quelli che sono sospettati di essere terroristi, fondamentalisti o comunque dediti a varie forme di intimidazione o tattiche nei confronti degli Stati Uniti d'America, fra cui appunto il suo amico. Da lì comincia per Terry un lungo periodo di difficoltà, perché i suoi compagni un po' alla volta sospettano di questa sua adesione all'Islam. Poi poi se ne rendono conto, poi avviene un chiarimento quasi cinematografico in un cortile che finisce con una scazzottata, poi alla fine viene Holbrooks viene trasferito, torna nel continente, serve per altri 6 mesi nell'esercito e alla fine viene allontanato senza motivazione, anche se è chiaro che la motivazione è questa. A sua volta poi ricade in una spirale di alcol, droga, finisce addirittura all'ospedale con un grave incidente provocato appunto dalla sua condotta dissennata, si spacca la testa, gli mettono una placca e alla fine torna nella sua città natale di Phoenix, dove trova lavoro presso la locale moschea e in questo momento lavora lì, e lì è stato incontrato dal giornalista e lì racconta le sue storie, la sua storia e le sue storie, perché poi le sue storie, la parte più interessante dell'articolo è un po' un controcorrente, perché sono storie di normale contatto, solidarietà, in certi casi conoscenza tra carcerieri e prigionieri, racconta anche storie di altri soldati come lui che a contatto con i musulmani non hanno fatto scattare il tipico meccanismo di mutua ostilità che di solito viene fuori in questi casi, ma invece hanno trovato metodi di solidarietà. Tra l'altro anche il responsabile della sua conversione, diciamo così, questo Ahmed El-Rachidi è stato rilasciato nel 2007, a sua volta ha avuto una vita poi piuttosto difficile, una volta tornato in Marocco, continua a firmarsi nelle mail che ha mandato a Newsweek con il suo nome da prigioniero, Ahmed 590, perché tra l'altro tutte le accuse nei suoi confronti sono state cancellate e rimosse. Una storia molto strana, vi ripeto il nome, lo potete cercare su internet, si chiama Terry Holdbrooks, questo soldato un po' sfortunato, anche un po' bizzarro, però racconta una storia, come dire, parallela, sotterranea, sicuramente intrisa di grande umanità. Come al nostro soldatino Terry capitano cose strane nel cuore della notte, lo racconta in questo Evergreen, questo classico River of Dreams. Dunque vi ho raccontato in apertura questa vicenda di telematica, presidenti, modernità e town hall, no? e congregazione vecchio stile, insomma sale consiliari dove ci si alza e si dice la propria. L'iniziativa ha avuto uno straordinario successo, milioni e milioni di visitatori nella versione americana. Allora noi ce ne siamo inventati, no? Immaginati una versione italiana, no? Ci siamo detti, ma che cosa potrebbe succedere a fare una roba del genere in Italia? Il primo ministro, il presidente del Consiglio o addirittura il presidente della Repubblica che si siedono lì e bene o male, quando le domande sono votate in diretta, devono da risponderci, niente da fare, quelle sono quelle domande a cui i cittadini chiedono risposta. Già, ma quali domande? Vi abbiamo chiesto suggerimenti, vi abbiamo chiesto come al solito di esprimerli. Allora, la lista di domande è bella lunga, però insomma il nostro Presidente del Consiglio mi scuserà, ma comincio con un SMS e un messaggio su Facebook che non c'entrano nulla. Sì. Ci ha scritto Roberta da Milano dicendo Paolo con 7 O. Mm-hmm. Il nostro Paolo, grazie, ciao. E così rispondiamo anche a un SMS che è arrivato pochi minuti fa di un ascoltatore, ascoltatrice, che dice: mi sono persa le buone del nostro Paolo ieri da Shanghai. Vi ho sentiti contenti, quindi non gli dovrebbe andare maluccio. Diciamo solo che sta per darsi la base. Ai massaggi. Massaggi, questo è il nuovo corso di Paolo. Stendiamo un velo sui massaggi, ma questa è la base di Jefferson, che purtroppo ha le sue priorità. Allora, da Paolo al Premier, cominciamo da Lucio, che è davvero pirotecnico. Scrive: caro Silvio, monarca anarchico, genio assoluto, salvatore della patria, gaudente edonista, mi dici in un orecchio come fai a sopportare tutti quei baciapile? Poi c'è Roberto che dice: Obama continua a mostrarsi molto techy, e invece ha delle domande belle tignose, insomma belle significative per il nostro Presidente del Consiglio, perché chiede: le andrebbe un giretto sui treni pendolari sulla linea Milano-Chiasso dopo che ha inaugurato la freccia rossa tra Bologna e Firenze? E poi chiede: ne sa più nulla del progetto Tianjin, quello mi sa che aveva portato Arbore in Cina agli albori di Jefferson Ming. Progetto Tianjin, dove sei? Tianjin dice: rispondi, batti un colpo. Ma è dettagliato. Roberto dice: enclave italiana in Cina fino al 45 che il predecessore Ciampi aveva inaugurato nel 2004. Dobbiamo chiedere a Saro, Vai. Un'altra di Faber: parlerei volentieri con Berlusconi e Napolitano a condizione di stare faccia a faccia e fare domande vere per ricevere risposte vere di esperienza e di vita, e su questo Faber ha dei dubbi. Innanzitutto anch'io mi prendo, come dire, una pausa e ringrazio Michele da Verona, che giustamente mi precisa che il coso per cercare l'oro non si chiama passino, ma setaccio. Grazie Michele, il nostro vocabolario si allarga continuamente. Setaccio, ma certo. Allora, Francesco scrive a Silvio, la domanda che gli farebbe è questa: pensa che sarà mai possibile eliminare il mestiere di politico dalla nostra Repubblica? Ma davvero, Francesco, vuoi fargli questa domandona? Edward vuole osservare che finalmente qualcuno comincia ad accorgersi che la carta e la burocrazia politica sono superate dalla necessità di velocità. Hai perfettamente ragione. Purtroppo per noi, dice Edward, l'Italia è costretta nella morsa di molti politici antitecnologici. Voilà. Quello dicono anche i nerd al servizio di Obama. Flavio vuole sapere, a proposito di leggi ad persona, un auto-impeachment? Caspita! Questa è complicata. E poi infine Roberto dice: la domanda per Silvio, per seguire in maniera seria, non all'italiana, chi ruba, ma tutti, dall'alto, dal più alto in giù, se no le persone nel loro piccolo si arrabbiano ma fanno cose grandi. E questa è l'onda populista della quale questa settimana, no, ci siamo parecchio occupati. Allora, altro giro con Eugenio, che scrive: io più che una domanda al Presidente del Consiglio mi chiederei se sarebbe possibile anche in Italia avere un coinvolgimento collettivo come quello americano. Domanda sul personale di Giovanni: ma chi te lo ha fatto fare, Silvio, viste le tue ricche note alternative possibili a scendere nel campo sterile della non politica e affollato da strani individui eletti da uno strano popolo? E invece c'è Stefano, lapidario: non ho nulla da chiedere ad una casta di ultra sessantenni, ecco, che non ha mai provato nulla sulla loro pelle. Stefano, non hai capito lo spirito però della cosa, non hai nulla da dire, ciao. Lorenzo invece ne ha molte da dire e chiede: caro Presidente, perché la gente comune ormai pensa a voi politici come una cosa a parte rispetto al resto della società? E anche: come mai in un periodo di crisi come questo il governo approva misure come il cosiddetto piano casa, che possono avere una loro valenza ma oggettivamente non aiutano chi si trova in difficoltà? O ancora, Lorenzo ne ha molte: come mai, Presidente, anche in Italia sono stati stanziati milioni di euro per salvare le banche? 4 ore per rispondere. Troppe, bisogna essere più americani in questo, una domanda di una riga. Ancora, vediamo, Massimo: l'iniziativa è lodevole a patto che sia realmente lui a rispondere, beh, ci mancherebbe, e non il segretario addetto al servizio. Caro Presidente, chiede Massimo, lei è sicuramente un uomo capace dalle doti non comuni, questa solita premessa all'italiana, ma perché prima di esternare o rispondere a una domanda non conta fino a 3, la solita stoccata all'italiana? Vai. No, beh, qui li ho quasi esauriti. C'è qualcuno che lo invita a tornare a fare l'imprenditore, che è il lavoro che sa fare meglio. Giovanni dice: Obama ha voluto interloquire con i cittadini. Siamo sicuri che anche in Italia sia così? Non intendo dire che il nostro premier non ascolti i cittadini, ma penso che in Italia abbiamo una visione del potere differente da quella americana. E infine, per chiudere, al nostro ministro del consiglio chiederei di snellire quest'Italia lenta, burocratica, svogliata. Al secondo invece: ma come hai fatto ad arrivare lì, ovvero al presidente? E infine Ludovica: il Venezuela ha legalizzato le coppie gay, in Italia non vi è tutela nemmeno per gli etero di fatto, quando finirà l'ingerenza del Vaticano negli affari di Stato? E questa secondo me piglierebbe parecchi voti. A tra poco. Adagio più consunti, no, del mondo dello spettacolo, dello show business, soprattutto quello americano, è quello che insegna e impone che lo show deve sempre andare avanti, non importa, gli attori, le stelle passano, ma la grande macchina dello spettacolo non si ferma mai. E invece in questi ultimi giorni sono successi una serie di piccoli episodi, no, che ci hanno fatto capire che in realtà, forse anche per un sovraccarico emotivo ormai latente o addirittura palese un po' in tutto il mondo occidentale, sicuramente anche in Italia, certamente anche in America, adesso ci si può anche fermare. Pensate che quando è morta Natasha Richardson, la 45enne attrice inglese ma americana ormai di adozione, di residenza, a causa di uno stupido incidente sulle piste di neve a Broadway, per un piccolo minuto, ma per un significativo piccolo minuto, hanno spento le luci, no? I grandi teatri, Times Square, le grandi luci del musical si sono spente, insomma hanno trovato un attimo di pace e di riflessione. E sono successi dei fatti appunto concatenati, uno vicino all'altro, sono stati notati anche dalla stampa inglese, sono un po' caduti anche sotto la nostra attenzione, appunto la morte in quell'incidente per non avere il caschetto in testa. Probabilmente Natasha Richardson stava imparando a sciare, a 45 anni è caduta, ha battuto la testa, non si è accorta subito del guaio, della tragedia a cui stava andando incontro, forse non è stata visitata o soccorsa nel modo giusto, e poche ore dopo è caduta in coma e pochi giorni dopo a New York è morta. E in Inghilterra invece è morta dopo molte storie, addirittura molti pettegolezzi che l'avevano circondato, si diceva che forse potesse essere tutta una messa in scena, no? Invece c'era questa giovane ragazza, 27 anni, Jack Goody, una protagonista del Grande Fratello inglese, addirittura una protagonista turbolenta, una che aveva fatto casino, ha litigato, si era fatta notare, insomma era stata messa fuori, poi era diventata un po' un personaggio mediatico al limite del trash, poi si ammala di un cancro cervicale e decide di renderlo pubblico, decide di parlarne, decide anche di strumentalizzarlo, no? Lei che forse si sentiva strumentalizzato, comunque ha fatto un avanti e indietro col mondo dello spettacolo, per soldi, per guadagno, per visibilità, vuole lasciare dei soldi ai suoi bambini, mette in scena pubblicamente la sua morte. Poi delle ultime ore c'è questa notizia, Lino Banfi, no, che appare alla nostra televisione per parlare del cancro alla mammella di sua figlia e dire agli italiani: sono qui perché me lo ha chiesto lei, perché voglio che sappiate, perché dobbiamo condividere, capire, riflettere un po' tutti insieme. Ho al telefono una amica, nonché voce frequente qui a Jefferson, Maria Rosa Mancuso, critico cinematografico del Foglio. Ti saluto, Maria Rosa, come stai? Bene, buongiorno. Insomma, c'è un po' questo, ti volevo coinvolgere un po' in questo ragionamento, c'è un po' un momento di riflessione che poi coinvolge, no, questa celebrità così chiaramente caduca, no, queste star che poi sono soprattutto donne, sono soprattutto madri, in entrambi i casi qua ci sono dei ragazzini di mezzo e sono persone fragili come noi tutti. Diventa meno vero, no, che lo show deve sempre andare avanti. Queste storie colpiscono molto più di quanto possa aver colpito i Grandi Fratelli o forse anche i buoni film di Natasha Richardson. Cosa dici? Ma certamente i film di Natasha Richardson non vi ricorda più nessuno, ricorderemo invece questo tremendo incidente e soprattutto la concatenazione assurda quando si dice è destino. Io credo che queste due storie siano così seguite, abbiano fatto così lacrimare, perché in fondo sono due storie che potrebbero essere state scritte da un bravo sceneggiatore, certo, di Hollywood. Da una parte appunto la donna che incontra il proprio destino e in qualche modo lo provoca, dall'altra parte la cattiva, perché Jane Goody era la cattiva, certo, era quella che insultava gli indiani, era quella che creò nel reality un incidente diplomatico con l'India, che alla fine usa la televisione, usa la celebrità per lasciare qualcosa ai propri figlioli. Mi viene in mente una scena di un film che si intitolava Magnolia, certo, dove un infermiere, avendo un malato di cancro che sta per morire, cerca di trovare il figlio che è una celebrità, e la segreteria del figlio dice: no, guardi, non mi racconti questa cosa che c'è uno in punto di morte, che bisogna ritrovare il figlio, hanno litigato per tanto tempo e adesso si vogliono ritrovare. Dice: queste cose succedono solo al cinema. E l'infermiera risponde una cosa bellissima, secondo me: queste cose succedono al cinema perché succedono nella vita. Certo, certo. Tra l'altro Magnolia continua a ricorrere in questi giorni, c'è un decennale del film, ma quel film continua a essere un po', come dire, un piccolo capolavoro di intuizione del contemporaneo. Senti, ma volevo restare, Maria Rosa, su Natasha Richardson, anche perché abbiamo visto poi queste immagini diffuse internazionalmente di questo gruppo di attori, poi attori, come dire, come si usa a dire in certi casi, di qualità, no? Persone per bene, non necessariamente degli scoppiatoni del jet set, travolti da questa tragedia, riacquisire poi anche questo, appunto, questo senso di umanità. In fondo gente che lavora è molto conosciuta perché è molto vista sullo schermo, ma poi questa era una signora con dei figli, con una storia familiare particolare, ha acquisito grande profondità anche, come dire, il versante privato della sua vita, vero? È un versante privato, che anche questo è un versante molto pubblico, perché quando una è figlia, certo, di Vanessa, certo, Redgrave e di Tony Richardson, certo, che sono due miti del cinema inglese, allora la storia non è più soltanto la sua, allora Hollywood rende omaggio non soltanto alla moglie di un attore che è Liam Neeson, ma anche alla figlia del regista che fece grande il cinema inglese negli anni 60. Ci ricordiamo più di Gioventù, Amore e Rabbia o del Caro Istinto, per stare ahimè in tema, di quanto ci ricordiamo il film di Natasha Richardson. Uno forse ce lo ricordiamo ed è Follia, tratto, certo, dal, certo, romanzo di Patrick McGann. Tra l'altro si parla anche di una, non dico di una maledizione, ma di una sfortuna che la famiglia Redgrave, no, porta un po' dietro alla sua storia, con incidenti e brutte storie un po' dappertutto. E poi c'è stato quest'ultimo atto di cui ti parlavo poco fa, no? Questa sortita di Lino Pino Banfi, insomma un personaggio della televisione popolare, dell'immaginario italiano più diffuso, più tranquillo, che a sua volta usa lo strumento che ne ha garantito il successo, la ricchezza, il benessere, per parlare di tutt'altro e dire: mia figlia sta male, vuole che io venga qua con la mia faccia ormai da nonno televisivo a dire alle donne: fate prevenzione, state attente, curatevi per bene. È interessante, c'è un po' un riuso, un ritorno di fiamma, un cambio di direzione tra il grande strumento, tra il grande fratello e questi personaggi che insomma probabilmente lo conoscono talmente bene da saperlo usare. Ho l'impressione che, così, leggevo i commenti di oggi, anche io ho pensato a Rino Banfi, leggendo i commenti di oggi sembra che così ci sia una sorta di controordine, cioè reality che finora era il male peggiore, quel grande male che si chiama televisione, adesso, siccome parla di malattie, siccome cerca di fare, di eseguire uno dei miti del nostro tempo che è la prevenzione, oibò, adesso ci si accorge che cambiando i contenuti il reality è qualcosa di buono, che è una posizione, diciamolo, dal punto di vista dei media di pura retroguardia, perché qualcosina in fondo dovrebbe contare anche il linguaggio. Certo. E se in un certo senso i visti messi in piazza, le proprie faccende messe in piazza non vanno bene o nella felicità o per fare soldi, in fondo non dovrebbero funzionare neanche in questo modo, se vogliamo fare un ragionamento parlando anche appunto di linguaggio, non soltanto di contenuti. Va bene, ti ringrazio. In pratica realtà e finzione stanno intrecciando sempre più la loro fila, perché poi la finzione, la televisione, il lavoro, ma anche la nostra esperienza psicologica, psichica, nei media, sta diventando sempre più materia comune, luogo comune della nostra vita. Molte grazie a Maria Rosa Mancuso del Foglio. There are places I remember all my life, though some have changed forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living in my life. I've loved them all. Già qualche settimana fa vi avevo parlato di un libro che al momento era ancora in uscita, adesso invece è qui davanti a noi, Bianco e Verde, mica per caso insomma, perché è uscito, ha raggiunto le librerie italiane da Feltrinelli, si chiama Hamas, che cos'è e cosa vuole il movimento radicale palestinese. L'autrice è Paola Caridi, che è qui in studio. Buon pomeriggio Paola. Buon pomeriggio. Grazie di essere qui, corrispondente da Gerusalemme per Lettera 22, poi scrive per diverse testate come il Domenicale del Sole 24 Ore ed altre, e ha pubblicato questo libro in un momento in cui, lo vedete anche semplicemente ascoltando il nostro programma, l'argomento è caldissimo, e forse anche questa domanda, Paola, che ti poni nel sottotitolo del tuo saggio è la prima che viene in mente, forse la curiosità primaria che i lettori e non lettori vogliono togliersi nei confronti di Hamas, perché poi questi filoni di buoni e cattivi, queste lavagne divise in due a cui un po' spesso i media anche italiani stessi ci abituano, e poi dopo precipitose conversioni come diceva Lucio Battisti, e non si capisce bene dove sta il bene e il male. Tra l'altro adesso leggeremo insieme qualche agenzia appena arrivata, è uscita per esempio ieri un'agenzia proveniente proveniente da Israele, che rivede con una certa decisione il numero delle vittime di Piombo Fuso, l'operazione militare natalizia, diciamo così, ammette che adesso i morti sono sopra 1100, se non sbaglio sono 1170, con 800 terroristi, 300 civili. Insomma, si comincia, non dico a fare la storia attorno a quell'operazione, ma a delinearne i limiti e le responsabilità. Ma partiamo dal tuo libro, da questo interrogativo a cui da questo sottotitolo, che allora funziona. Certo. Abbiamo scelto un sottotitolo didascalico proprio per questo motivo, e non un sottotitolo evocativo. Avremmo potuto scrivere dalla resistenza alla politica, dalla spada al potere, invece non l'abbiamo messo. Questi erano nel foglietto. Beh, erano soprattutto nella mia mente, perché la domanda, una delle domande all'interno del libro è proprio se gli ultimi anni di Hamas, soprattutto da quando ha vinto le elezioni politiche del 25 gennaio 2006, dovessero significare un passaggio dalla virgolette resistenza, lotta armata, uso della violenza, alla politica tout court. Questo interrogativo è all'interno appunto del sottotitolo che poi è stato scelto, perché che cos'è e cosa vuole il movimento radicale islamista palestinese è una domanda cruciale per i prossimi anni, perché quello di cui ci si è accorti anche con l'operazione Piombo Fuso è che non si riesce a fare a meno, in una soluzione complessiva del conflitto israelo-palestinese, di una forza come Hamas. Lo sradicamento di Hamas è un progetto solo teorico? Solo un progetto... Beh, soprattutto è stato un progetto fallito per tutti questi 22 anni. Hamas è nata nel 1987, ma non è nata da nulla, perché è nata dai fratelli musulmani palestinesi, che erano, come dire, si erano cominciati a diffondere già alla metà degli anni 40. Quindi, insomma, sono passati parecchi decenni, e la politica israeliana di repressione del movimento islamista non ha portato quei frutti che Israele sperava. Sono state fatte retate molto grosse, arresti di centinaia e migliaia di attivisti in differenti periodi dell'esistenza di Hamas. Sono stati fatti gli omicidi mirati, è stata decapitata la leadership di Hamas, tutti i più importanti dirigenti del movimento islamista sono stati uccisi. Eppure, nonostante questo, Hamas continua a vivere. È stata fatta l'operazione Piombo Fuso, nel 92 è stata fatta una deportazione di 415 leader, che erano i più importanti leader, eppure... Ecco lì. Come giornalista italiana, quindi avendo spesso il problema, la necessità, l'urgenza, quindi di parlare, di presentare Hamas ai lettori italiani e anche alle opinioni italiane che conosci, condividi, ci sei cresciuto e ci vivi, dov'è che senti di doverti come dire, sforzare, dove serve un passo in più di chiarezza per spiegare il senso, il pensiero? In molti punti. Prova a dirci qualcosa. Perché noi siamo in un paese che non vive la guerra da decenni. Eppure l'abbiamo vissuta, insomma, abbiamo vissuto anche una quasi guerra civile, abbiamo vissuto un'occupazione, una resistenza all'occupazione, abbiamo vissuto, insomma, tutte quelle fasi di conflitto che però ormai sono retaggio dei nostri padri e dei nostri nonni. E dunque spiegare quali sono le dinamiche di un conflitto già di per sé difficile, perché questo movimento nasce in un conflitto, cioè non nasce in una situazione di tranquillità, nasce in un posto dove non ci sono confini riconosciuti, dove non c'è uno Stato palestinese, c'è uno Stato israeliano, c'è un'entità palestinese che non è Stato. E dunque certe volte noi usiamo delle chiavi interpretative che sono le chiavi interpretative delle generalizzazioni molto in un molto talk show medio italiano, insomma, nei confronti di Hamas, che è una realtà molto complessa, tant'è che il libro non è proprio breve, non è un Istanbul proprio per questo, ma dicevo, per alcuni versi usiamo delle chiavi interpretative così lontane da quella realtà, per alcuni versi invece pensiamo che sia un percorso speciale quello, e non pensiamo invece a delle cose che potrebbero anche farci comprendere cosa sta succedendo. Quando noi pensiamo che questo è un movimento islamista, vuol dire che è un movimento di persone di fede che si coinvolgono in politica. Se noi pensiamo ai movimenti cattolici che nel corso del Novecento si sono sviluppati non solo in Italia ma in Francia e in Germania e non solo in questi paesi euro-occidentali, ci rendiamo conto che non è solamente il musulmano che si coinvolge nella politica, ma lo sono stati anche i cristiani. Allora, se proviamo a vedere anche non dei paralleli, ma almeno a capire che non sono proprio del tutto diversi da noi, ma che ci sono delle cose specifiche, oppure la stessa organizzazione di Hamas, che è un partito che io dico ha una sorta di centralismo democratico, che lo appaia a partiti di massa, nel senso che la decisione viene presa attraverso una consultazione che percorre tutti gli strati della società e tutti i luoghi del territorio in cui c'è Hamas. Senti, stiamo chiudendo, ma solo telegraficamente, siamo in area elettorale per Hamas, mancano un pugno di mesi, no? Gennaio 2010 si va... Inshallah, come si dice da che profondità. Sente un profumo di vittoria, secondo te, Hamas? Io sento, ma non è detto, non è detto, perché dipende anche come saranno queste elezioni. Io spero che siano elezioni democratiche, certo, perché noi occidentali abbiamo voluto delle elezioni democratiche in cui vi fosse Hamas. Hamas ha vinto e poi non l'abbiamo accettato, quindi non vorrei che si verificasse la situazione opposta, in cui facciamo delle elezioni che magari non sono così democratiche. Grazie a Paola Caridi. Vi ricordo ancora il titolo del suo libro in tutte le librerie: Hamas, che cos'è e cosa vuole il movimento radicale palestinese, da Feltrinelli. Grazie Paola. Grazie a voi. Allora, fine settimana anche per Jefferson 2, l'arte da svolti. Sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, come al solito in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori. La mail è jefferson2@radio24.it. Le nostre ormai leggendarie pagine Facebook sono quella della redazione per parlare con noi, redazione Jefferson 2, e quella dei focus, dei dibattiti, dei confronti, si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. La puntata di oggi la trovate in podcast sul sito della radio oppure in replica a mezzanotte. Noi torniamo in diretta attorno alle 4 lunedì, sempre qui su Radio 24. Un eccellente weekend a tutti, grazie. Oh, 是单